Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Montecristo entrò nel salotto di casa Danglars e abbracciò tutta la scena con uno sguardo. Vicino alla baronessa e quasi stesa sopra una poltroncina stava Eugénie e in piedi Andrea Cavalcanti, vestito di nero come un eroe di Goethe, con scarpe di vernice e calze di seta bianca a giorno. Il giovane passava una mano molto bianca e ben curata fra i suoi capelli biondi, facendo scintillare un diamante che, malgrado i consigli del conte di Montecristo, il vanitoso giovane non aveva potuto resistere al desiderio di infilare al dito mignolo. Quel gesto era accompagnato da sguardi infuocati e profondi sospiri indirizzati alla signorina Danglars, che appariva sempre la stessa, vale a dire bella, fredda e motteggiatrice. Non le sfuggiva un sospiro o uno sguardo di Andrea, ma si sarebbe detto che scivolassero sulla corazza di Minerva, corazza che, secondo alcuni filosofi, ricopre qualche volta il petto di Saffo. Eugénie salutò freddamente il conte e approfittò dell'inizio della conversazione per ritirarsi nel suo studio, da dove presto uscirono due voci allegre e scherzose, miste ai primi accordi di un piano, che rivelarono a Montecristo come la signorina preferisse alla sua e a quella di Cavalcanti la compagnia della signorina Louise d'Armigny, sua maestra di canto. Il banchiere non tardò a comparire. Il suo primo sguardo fu per Montecristo, è vero, ma il secondo fu per Andrea. «Queste signorine non vi hanno forse invitato a cantare con loro?» domandò Danglars ad Andrea. «Ahimè no, signore», rispose Andrea con un sospiro ancora più profondo degli altri. Danglars si avvicinò alla porta di comunicazione e l'aprì. Allora si videro le due giovani donne sedute sulla medesima seggiola davanti al pianoforte. Suonavano ciascuna con una mano, esercizio al quale si erano abituate per capriccio e nel quale erano diventate sorprendentemente abili. «Ebbene», domandò il banchiere a sua figlia, «siamo dunque esclusi noi?» E condusse il giovane nella saletta, e fosse caso o arte, la porta fu spinta dietro ad Andrea, in modo che dal luogo dove erano seduti Montecristo e la baronessa non si potesse vedere nulla. Poco dopo, il conte udì la voce di Andrea che cantava, con l'accompagnamento del piano, una canzone corsa. Mentre il conte ascoltava, sorridendo, quella canzone che gli faceva dimenticare Andrea per ricordargli Benedetto, la signora Danglars vantava a Montecristo la forza d'animo di suo marito, che anche quella mattina aveva perso 300.000 o 400.000 franchi in un fallimento di Milano. E difatti l'elogio era ben meritato, perché se il conte non lo avesse saputo dalla baronessa, o forse tramite uno di quei mezzi di cui disponeva per sapere tutto, il volto del barone non ne avrebbe fornito il più piccolo indizio. «Bene», pensò Montecristo, «è già arrivato al punto di dover tenere nascoste le perdite. Un mese fa se ne vantava». In quel momento rientrò Danglars, solo. «Ebbene», disse la baronessa, «lasciate il signor Cavalcanti con vostra figlia». «E la signorina d'Armigny», soggiunse il banchiere. Poi, volgendosi a Montecristo, «Che giovane cortese, vero, signor Conte? È il principe Cavalcanti». «Ma è veramente principe?» «Ah, io non posso garantirlo», disse Montecristo. «Mi fu presentato suo padre come marchese. Egli sarà conte. Ma io credo che egli stesso non dia grande importanza a questo titolo». «Perché?» disse il banchiere. «Se è un principe, ha torto di non vantarsene. A ciascuno ciò che gli spetta. Io non amo chi rinnega la propria origine». «Ah, voi siete un vero democratico», disse Montecristo sorridendo. «Ma vedete a che cosa vi esponete», disse la baronessa. «Se per caso venisse il signor di Morcerf, troverebbe il signor Cavalcanti in una stanza dove lui, il fidanzato de Genie, non ha mai avuto il permesso di entrare». «Fate bene a dire per caso», riprese il banchiere, «poiché in verità lo si vede tanto di rado che si può proprio dire che è il caso che ce lo conduce». Thank you. «Il signor Visconte Albert de Morcerf», annunciò il cameriere, e Albert entrò. Era molto spigliato e allegro. Salutò la baronessa con rispetto, Danglars con familiarità, Montecristo con affetto. Poi, rivolgendosi alla baronessa, «Volete permettermi, signora, di chiedervi come sta la signorina Danglars?» «Benissimo, signore», rispose prontamente Danglars. «In questo momento sta eseguendo della musica nel suo salutino in compagnia del signor Cavalcanti». Albert conservò la sua aria calma e indifferente. Forse provava internamente un po' di dispetto, ma sentiva lo sguardo di Montecristo fisso su di lui. «Il signor Cavalcanti ha una bellissima voce da tenore», disse. «E la signorina Eugenie è un magnifico soprano, senza contare che suona stupendamente il pianoforte». «Il fatto è», disse Danglars, «che vanno perfettamente d'accordo». «Così», soggiunse sperando di spingere le cose al punto che desiderava, «il principe e mia figlia ieri hanno raccolto l'ammirazione generale. Non c'eravate ieri, signor di Morcerf?» «Quale principe?» domandò Albert. «Il principe Cavalcanti», rispose Danglars, che si ostinava sempre a voler dare quel titolo al giovane. «Oh, scusate», disse Albert. «Ignoravo che fosse principe. E così il principe Cavalcanti ha cantato ieri con la signorina Eugenie. Sarà stata una cosa da destare entusiasmo e mi dispiace vivamente di non averli uditi». Poi, dopo un breve silenzio, come se niente fosse, aggiunse: «Mi sarà permesso di presentare i miei omaggi alla signorina Danglars?» «Oh, aspettate, aspettate, ve ne supplico», disse il banchiere fermando il giovane. «Udite la deliziosa cavatina. Meravigliosa. Sta per finire. Un solo secondo». «Ah, benissimo! Bravo! Bravi! Brava!» E il banchiere si mise ad applaudire con frenesia. «Infatti», disse Albert, «è impossibile esprimere meglio del principe Cavalcanti la musica del proprio paese. Avete detto principe, è vero? Beh, d'altra parte, se non è principe lo sarà, in Italia cosa facile. Ma per tornare ai nostri adorabili cantanti, dovreste farci un piacere, signor Danglars. Senza dir loro che vi è qui un estraneo, dovreste pregare la signorina Danglars e il signor Cavalcanti di cominciare un altro pezzo. È una cosa così deliziosa godere la musica a un po' di distanza, nella penombra, senza essere visti, senza vedere e di conseguenza senza disturbare i cantanti». Danglars questa volta fu sconcertato dalla flemma del giovane e, preso Montecristo in disparte, «Conte», disse, «che ve ne pare del nostro innamorato?» «Diavolo, mi sembra un po' freddo, non c'è dubbio. Ma che volete? Vi siete impegnato?» «Senza dubbio, mi sono impegnato, ma a dare mia figlia a un uomo che l'ami, e non a un uomo che non l'ama affatto. Guardatelo là, freddo come marmo, orgoglioso come suo padre. Fosse ricco, almeno. Avesse la fortuna dei Cavalcanti. Insomma, si potrebbe passarci sopra. In fede mia, non ho ancora consultato mia figlia, ma se lei avesse buon senso...» «Orsù, non vi scaldate la testa. Un mese fa questo matrimonio vi pareva un eccellente affare. Ma come ben capirete, io sono dolentissimo. Fu in casa mia che voi avete incontrato questo giovane Cavalcanti, che io non conosco. Ve lo ripeto». «Lo conosco io», disse Danglars, «e basta così. Voi lo conoscete? Avete dunque preso informazioni sul suo conto?» domandò Montecristo. «E c'è bisogno di questo. Non si conosce subito, a prima vista, con chi si ha a che fare. Prima di tutto è ricco». «Non lo assicuro. È un giovane distinto», fece a sua volta Montecristo. «Conosce la musica». «Tutti gli italiani la conoscono. Vedete, conte, siete ingiusto con questo giovane». «Ebbene, sì, lo confesso. Vedo con dispiacere, conoscendo i vostri impegni con i Morcerf, che venga a mettersi in mezzo, abusando della sua fortuna». Danglars si mise a ridere. «Oh, oh, oh, come siete puritano!» esclamò. «Ma questo avviene tutti i giorni nel mondo». Thank you. Più tardi, Montecristo invitò Albert de Morcerf a casa sua. «Serviteci te, Battistin», disse Montecristo. Battistin uscì senza dir parola. Dalla porta provenivano suoni simili a quelli di una chitarra. «Davvero, mio caro Visconte, siete destinato a udire musica questa sera. Fuggite il pianoforte della signorina Danglars per cadere nelle note di Haydée». «Haydée! Che nome adorabile! Vi sono dunque delle donne che si chiamano veramente Haydée, oltre a quelle nominate nei poemi di Lord Byron?» «Certamente. Haydée è un nome rarissimo in Francia, ma comunissimo in Albania e in Epiro. È come se voi diceste, per esempio, castità, pudore, innocenza. È un nome di battesimo». «Oh, è delizioso», disse Albert. «Quanto vedrei volentieri che le nostre francesi si chiamassero signorina bontà, signorina silenzio, signorina carità cristiana. Immaginate un po', se la signorina Danglars, invece di chiamarsi Claire Marie Eugénie, come la chiamano, si chiamasse signorina castità, pudore, innocenza Danglars. Ah, diavolo, che effetto farebbe in una pubblicazione matrimoniale!» «Pazzo», disse il conte. «Non scherzate così ad alta voce. Haydée potrebbe udirvi». «E si irriterebbe?» «No», rispose il conte con la sua aria grave. «È buona?» domandò Albert. «Non è bontà, è dovere. Una schiava non deve irritarsi contro il suo padrone». «Or su, via, adesso non scherzate, forse che ci sono ancora degli schiavi». «Senza dubbio, poiché Haydée è mia schiava». «Schiava del signor conte di Montecristo? Ah, beh, è una posizione in Francia. Dal modo con cui maneggiate l'oro, è un impiego che deve valere almeno 100.000 scudi l'anno». 100.000 scudi? La povera ragazza ne ha posseduti ben oltre. È venuta al mondo e ha dormito sopra tali tesori che quelli delle 1.000 una notte sono ben poca cosa. È dunque proprio una principessa. Lo avete detto. Ed è anche una delle più illustri del suo paese. Ah, non ne dubitavo. Ma in che modo una grande principessa è divenuta schiava? In che modo Dionigi il tiranno diventò maestro di scuola? La guerra, mio caro Visconte. Il capriccio della sorte. E il suo nome è segreto? Per tutti sì, ma non per voi, mio caro Visconte. Siete amico mio e tacerete, non è vero? Oh, sul mio onore! Conoscete voi la storia del pascià di Giannina? Di Ali Tebelin, certamente, poiché fu al suo servizio che mio padre ha fatto fortuna. Ah, già, è vero, me n'ero dimenticato. Ebbene, chi è Haydée rispetto ad Ali Tebelin? Semplicemente sua figlia. Come? La figlia di Ali Pascià? Sì, e della bella Basilichi. Ed è vostra schiava? Oh, mio Dio, sì! Come mai? Diavolo! Un giorno sono passato per il mercato di Costantinopoli e l'ho comprata. Straordinario, straordinario. Con voi, mio caro conte, non si vive, si sogna. Ora, ascoltate, forse la mia domanda sarà troppo indiscreta. Dite pure. Ebbene, mio caro conte, presentatemi alla vostra principessa. Volentieri, ma a due condizioni. Le accetto subito. La prima è che voi non confidiate mai ad alcuno questa presentazione. Benissimo, disse Morcerf stendendo la mano. Lo giuro. La seconda è che non diciate che vostro padre ha servito il suo. Giuro ancora. A meraviglia, Visconte. Non dimenticate questi due giuramenti. E dicendo questo batté sul campanello. Ali ricomparve. Avverti Haydée che vada a prendere il caffè da lei e falle capire che le chiedo il permesso di presentarle uno dei miei amici. Thank you. Haide aspettava nella prima stanza. Con grandi occhi spalancati per lo stupore, era la prima volta che arrivava fino a lei un uomo oltre Montecristo. Era seduta sopra un sofà in un angolo, con le gambe incrociate, e si era fatta, per così dire, un nido nelle stoffe di seta rigate e ricamate fra le più ricche d'Oriente. Vicino a lei lo strumento, il cui suono ne aveva rivelato la presenza in quella posa, era graziosissima. Vedendo Montecristo si sollevò con quel duplice sorriso di figlia ed innamorata che era tutto suo. Montecristo le si accostò e le tese la mano, sulla quale, come al solito, lei appoggiò le labbra. Albert era rimasto sulla soglia, affascinato da quella strana bellezza che vedeva per la prima volta e di cui non ci si poteva fare un'idea in Francia. «Chi mi porti?» domandò in greco la giovane a Montecristo. «Un fratello? Un amico? Una semplice conoscenza? O un nemico?» «Un amico», rispose Montecristo nella stessa lingua. «Il suo nome?» «Il conte Albert, quello stesso che a Roma liberai dalle mani dei banditi». «In quale lingua vuoi che gli parli?» Montecristo si volse verso Albert. «Sapete il greco moderno?» domandò al giovane. «Ahimè», disse Albert, «neppure il greco antico, mio caro conte». «Allora», disse Haide, mostrando di avere capito la domanda di Montecristo e la risposta di Albert, «io parlerò in francese o in italiano, se il mio signore vuole che parli». Montecristo rifletté un istante e poi disse: «Parlerai in italiano». Poi, volgendosi ad Albert: «Mi spiace che non comprendiate il greco moderno né il greco antico, perché Haide li parla entrambi perfettamente. La povera ragazza sarà costretta a parlarvi in italiano, cosa che vi darà forse una falsa idea di lei». Egli fece un segno ad Haide. «Sia benvenuto l'amico che viene con il mio signore e padrone», disse la giovane in eccellente toscana e con quel dolce accento romano che rende la lingua di Dante sonora come quella di Omero. «Ali, porta il caffè e le pipe». E Haide fece con la mano ad Albert il gesto di avvicinarsi, mentre Ali si ritirava per eseguire gli ordini della padroncina. Montecristo mostrò ad Albert due sedie pieghevoli e ciascuno andò a prendere la sua per avvicinarla ad una specie di tavola rotonda, ingombra di fiori, di disegni, di quaderni di musica, al cui centro stava un narghilè. «Mio caro ospite, e voi, signora?» disse Albert in italiano. «Scusate il mio stupore, sono tutto stordito ed è cosa naturalissima, poiché io, sì, ritrovo l'Oriente, il vero Oriente, non come lo vidi, ma come lo sognai, in piena Parigi. Ancora poco fa udivo correre gli omnibus e tintinnare i campanelli dei mercati di limonata. Oh, signora, signora, ma perché mai non so parlare il greco? La vostra conversazione con tutto ciò che d'incantevole vi circonda mi procurerebbe una serata di cui mi ricorderei per sempre». «Io parlo abbastanza bene l'italiano per discorrere con voi, signore», disse tranquillamente Haide. «Se amate l'Oriente, farò del mio meglio perché lo ritroviate qui». «Di che cosa posso parlare?» domandò sottovoce Albert a Montecristo. «Di tutto ciò che volete, del suo paese, della sua gioventù, dei suoi ricordi, oppure, se preferite, di Roma, di Napoli o di Firenze». «Oh», disse Albert, «non varrebbe la pena di essere alla presenza di una greca per parlare come si parlerebbe ad una parigina. Lasciate che io le parli dell'Oriente». «Fate pure, mio caro Albert, è il discorso a lei più gradito». Albert si voltò verso Haide. «A quale età la signora ha lasciato la Grecia?» domandò. «A 5 anni», rispose Haide. «Vi ricordate ancora della vostra patria?» domandò Albert. «Mi sembra che il mio paese, che io ho visto con occhi di bambina, sia sempre avvolto da nebbia tetra o luminosa, a seconda che i ricordi mi richiamino alla mente la patria come luogo di dolcezze o di amari patimenti». «Così giovane, signora», disse Albert, cedendo suo malgrado alla forza della banalità, «come avete potuto soffrire?»